and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Oggi finalmente un lunedì come si deve, con la ricreazione lunga. C'è scritto sulla bacheca, lo so, oggi ricreazione lunga. Ricreazione lunga, però non lunghissima, quindi adesso non siamo ancora in ricreazione. Quindi non rilassarti troppo. Cosa c'è? Dobbiamo parlare del prontuario della ministra Bambina Brambilla. Ah beh, Anna dai capelli rossi. Proprio lei. Anna dai capelli rossi va. Con il prontuario nuovissimo preparato dalla ministra Brambilla, adesso le famiglie possono partire con i bambini e fare dei viaggi oltre oceano, andare dappertutto, perché adesso sì, possono farlo. Ma certo, perché ci sono tutte le istruzioni su come portarsi i bambini all'estero, sia le cose burocratiche, sia cosa mettersi in valigia. Ma i bambini non è meglio non portarli tanto in giro, tanto se ne fregano i bambini, vogliono guardare la TV. Hai ragione, prima era così, adesso invece con il nuovo prontuario della ministra Brambilla tutti potranno portare i bambini all'estero e si divertiranno. C'è tutto, anche non so, per debellare le malattie più fantasiose come l'encefalite giapponese. Adesso aspettiamo il prontuario però per i bambini genitori. Ma in che senso? Eh sì, perché manca il prontuario per i turisti cosiddetti adulti, ossia per gli italiani in vacanza. Sai, no, gli italiani in vacanza è... Ma cosa? Ci facciamo riconoscere dappertutto. Anzi, si fanno riconoscere dappertutto. Ah sì, perché tu quando sei in vacanza non sei un italiano in vacanza. Io sono un cittadino del mondo, Un cosmopolita. Comunque, Bambina Brambilla, cosmopolita, forza al lavoro. Prepari subito un prontuario con le istruzioni per gli italiani in vacanza. Tipo, non mettetevi a parlare a voce alta mentre siete in coda al British Museum con uno che manco conoscete dall'altra parte della coda solo perché è italiano. Sì. Cose tipo... Dove sei? Perugia. Ah, bella Perugia, io sono di Milano. Dove siete in albergo? Ci vediamo stasera per una pizza? Una pizza. A Londra. E appunto, anche altra istruzione, non mangiate italiano se siete all'estero. Vabbè, ma sono tutti consigli già risaputi, Drago. Dici? Qualcosa di più fresco, di più originale, no? I consigli per chi fa turismo sessuale. Vabbè, sì. Quelli sono importanti. Lì, per esempio, cosa mettere in valigia? Profilattici. Vabbè, certo, però anche consigli facile. Tipo non fatevi illusioni, non è amore, è fame, no? Cosa dici? Ma sì, che gli italiani vanno in Thailandia, Cuba, Santo Domingo, poi si innamorano e credono che anche quelle lì, quelle belle signorine, siano innamorate, no? Ma invece... Drago, ma guarda che vanno lì solo per... Ma cosa dici? Da K, non ci voglio credere che sia così. Drago, vanno per... Ma cosa fai? Ma che gesti sono? Drago, vanno per... Ma siamo alla radio, non bisogna fare i gesti. Allora faccio il suono. Vanno lì per... Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Che poi, a dir la verità, io non l'ho mai chiamata ricreazione. Alla scuola svizzera la chiamavamo... No, pausa. Oh, la pausa. Mamma mia, la pausa. Noi l'intervallo. Mi viene in mente, Drago, in questo momento, quel film che ho visto l'altra sera su una scuola superiore americana in cui al momento della ricreazione, appunto, o della pausa, o della... E dell'intervallo. Dell'intervallo, si creavano sempre situazioni molto interessanti. Non so, c'erano corteggiamenti fatti di sguardi, no? Con la ragazza seduta sulla panchina, le botte negli spogliatoi. Sì, il macismo. Le canne di marijuana nei gabinetti. Sì, vabbè, però K, qui siamo in un asilo, durante la ricreazione non ci si corteggia con gli sguardi, non c'è nessuna ragazzina seduta sulla panchina, non ci si picchia e non si fuma la marijuana, soprattutto, ci mancherebbe pure. Peccato, perché sarebbe tutto molto più divertente. Ma perché non guardi qualche film meno leggerino, qualche volta qualcosa di adatto alla tua età? Perché i film sugli adolescenti mi fanno sognare. Drago, parlano al mio vero io, quindi io sono io. Sì, è un io adolescente, il mio vero io. Tuo io. Ma guarda che sono fatti bene. Sì, sono ottimi film. Vabbè, dai, bambino Alberto, eccoti qua. Ciao. Ciao. Allora, si parlava di viaggiare con i bambini prima. No, veramente si parlava di film sull'adolescenza. Va bene, capo, però dai, cambiamo discorso, perché ginnasio, con il bambino Alberto, niente ginnasio, bisogna trattare argomenti che lo aiutino a crescere. Quindi, allora, bambino Alberto, immagino che con i tuoi genitori, che sono progressisti, così molto liberali, sarai andato in giro per il mondo, no? Come? Toscana. Toscana. Cosa vuol dire Toscana? Cioè, da quando sono nato io? Cioè, sempre solo Toscana. Toscana. In agriturismi, All'estero mai? No, all'estero i miei genitori andavano prima di sposarsi. E allora mi raccontano quelle storie, no? Sono stati a Cuba, a Kathmandu, a San Francisco. Bello. Sì, ma io mica ci credo. Per me sono tutte palle. Ma no, dai! Hai detto palle? Ma il parolacciano come no? Devi imparare, è un euro adesso, almeno 50 centesimi a parolaccia, stai attento. Vabbè, comunque vedi che anche i tuoi genitori sono stati giovani, quindi non sono bugie quelle che ti dicono. Può anche darsi, però vederli adesso non diresti proprio. Vabbè, ma cosa ti ha raccontato di sti posti? Di Cuba, Kathmandu, San Francisco, insomma, sono bei posti. Che viaggiavano un po' liberi, no? Facevano l'autostop, andavano dove capitava, dormivano dove capitava, mangiavano quello che capitava. Cioè, praticamente un incubo, no? Ma no, ma sono le vacanze migliori, bambino Albatros. Avventura, vita spericolata. Sì, ma... Albatros. Albatros. Verlaine. Sì. No, chi è? No, Baudelaire. No, sì, Baudelaire. Rambeau. No, Baudelaire. Sì, ma i miei amici, quando vanno in vacanza, vanno in hotel di lusso, Ma vabbè. Ma, no, no, di lusso, in posti dove c'è la piscina, dove fanno... ti insegnano a giocare a beach volley, c'è la palestra, il corso di vela. Vabbè, ma tu sono tutte cose che non fai, no? No, ma... Tu lo sport non è che lo fai tanto. Perché? Dici sempre tu, le cose comunitarie non ti piacciono, cosa poi fai? Lo sport soprattutto, non sei un atleta, no? Vabbè, non sono un atleta, ma però se mi portassero al mare, al mare nuoterei un po', no? Sì, sì. E però non andiamo mai al mare. In Toscana, Toscana c'è il mare. Ma non entro terra. Ho capito. Invece i miei mi raccontano che dormivano, che quando sono stati in Nepal dormivano con i topi. Vabbè. Può che succede. No, voglio dire, cioè mi avete capito, con i topi, ma sì. A questo punto allora, meglio la Toscana, che non c'è niente da fare, che è noiosissima. Almeno però non ci sono i topi, no? Vabbè, però dai, adesso aspetta con calma. Quando cresci vedrai che i tuoi genitori torneranno a viaggiare. Ti porteranno con te, magari non in mezzo ai topi. Che poi, scusa, i topi, bambino Albertino, i topi sono uno svago, no? Nell'agriturismo in campagna non c'è niente da fare. Almeno ci fossero i topi, giochi coi topi. Sì. Ok, i topi sono... Tito, vabbè, ho capito, vabbè. Stiamo divagando. Allora, dicevamo che, vabbè, insomma, ci andrai da qualche parte prima o poi. Viaggerai tantissimo. Ricordi, quando si viaggia è molto importante vaccinarsi. Esatto, perché guarda che fa la vaccinazione. Sì, perché contro l'encefalite giapponese non c'è proprio scampo. Dì ai tuoi di leggersi bene il prontuario, perché la bambina Brambilla ne ha preparato uno molto chiaro e quindi contro l'encefalite giapponese dice tutto. Ma giapponese. Sì, encefalite giapponese, un virus della famiglia delle flaviviride. Ma noi al massimo andiamo a Cortona, Cioè, beh, cosa vuoi che me ne freghi dei virus giapponesi? Vabbè, insomma, c'è la globalizzazione, però, bambino Albertuccia, bisogna stare attenti anche a Cortona. Le zanzare che trasportano i virus arrivano anche a Cortona. Poi a Cortona c'è pure Jovanotti. Beh, ma mica è contagioso. Dipende. Ma cosa dici? Lui può attaccarti il sigmatismo. La S blesa, sai, la F blesa. La zeppola. Si chiama sigmatismo. Io la chiamo zeppola. Sei il solito approssimativo. Comunque, oltre ad attaccarti la zeppola, Jovanotti potrebbe anche avere un influsso devastante sui tuoi genitori, bambino Alberto. Pensaci. Immagina solo se incontrate Jovanotti in giro per le vie di Cortona, arriva lì, vi invita a casa sua a parlare un po' dei grandi temi. No, cose tipo, io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che parte da Che Guevara e va fino a Madre Teresa, passando per Malcolm X, per Alberto Gandhi e San Patrignano, arriva un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano, hai capito? Questo qua è l'incubo definitivo, Cioè, i miei genitori a casa di Jovanotti che si danno ragione a vicenda. Vedi, devi prendere precauzioni. Ho capito, ma contro il virus giapponese c'è il vaccino. Ma contro i Jovanotti... Contro Jovanotti no. No, contro Jovanotti non c'è niente. Jovanotti è imbattibile. Non lo butta giù nessuno. Va avanti così dall'87 circa. Allora suggerisci ai tuoi di andare in Umbria, che tanto è radical chic uguale, però non c'è Jovanotti. Bravo capa, però c'è il fratello di De Gregori che fa l'olio. Tu metti un giorno che i due fratelli De Gregori sono lì che stanno facendo un giro, incontrano la famiglia del bambino Alberto e succede di nuovo. Ma no, dai, De Gregori no, Sì. A meno Jovanotti è allegro, Cioè, non sarà una cima. Basta che li metti l'astro disegno in bocca, poi dopo. Invece no, De Gregori cupo, sempre ombroso. Ma non ci sono speranze. Bambino Alberto Fortis, devi dire ai tuoi genitori che vuoi andare in Giappone. Vabbè, ma a parte Alberto Fortis, ormai. Cosa? Vabbè, Alberto Fortis. E poi in Giappone perché? Perché è meglio l'encefalite giapponese o Jovanotti più De Gregori col fratello e l'olio? E Alberto Fortis. È una bella domanda, non lo so. Pensaci. C'è anche la terza opzione poi, topi nepalesi nel letto. No, basta coi topi, Vabbè, ma nepalesi. Vabbè, nepalesi o no, sono sempre topi, no? Scusate, invece di andare in mezzo ai topi, ma perché non ce ne andiamo in un villaggio turistico di quelli che gestisce la camorra, no? Giù a Sharm el-Sheikh, andiamo lì? le toppe non ci sono mica, eh. No, lì non si alza la mosca, Lì non si può neanche protestare, tipo, cameriere, scusi. Una volta che hai firmato il contratto, che paghi? E poi dopo... Vabbè, ma che vacanza è? È economica, però. I bambini non pagano, eh? Ma la che vada, mi sciolgono nell'acido. Tutti più buoni, tutti più carini, oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma! Chiedo asilo. Un programma di Cappa e Drago. Torniamo domani e mandate i vostri prontuari a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.